Garibaldi fu ferito, fu ferita una gamba. Gazzettino del Risorgimento, la storia dell'Unità d'Italia. Per Garibaldi, viva! Da gennaio a giugno del 1826. Crisi finanziaria in Gran Bretagna, svelata una maxi truffa. La repressione si scatena a Roma, Napoli e Modena. Atene sotto assedio ottomano, i turchi verso la conquista della città. Lago Maggiore, primo battello a vapore di linea da Magadino a Sesto Calende. Una buona giornata da Simone Spezia, dalla redazione del Gazzettino del Risorgimento. In apertura la crisi finanziaria in Gran Bretagna che, come vi abbiamo raccontato nella precedente edizione, ha portato al fallimento di molte banche, 60 in tutto, una crisi dovuta anche alle speculazioni sui terreni in Sud America sulle quali si è innestata una maxi truffa. Si chiama Gregor McGregor, è militare e scozzese ed è anche, ormai è certo, uno dei maggiori truffatori della storia inglese. La vicenda è complessa e semplice insieme. Dopo aver combattuto nelle guerre sudamericane, nel 1820 McGregor torna in Inghilterra. Qui fa sapere di essere stato nominato cacicco, cioè principe, del principato di Poyais, una nazione indipendente davanti all'Honduras britannico. Terra fertile e risorse incontaminate, pochi coloni e nativi pacifici. McGregor annuncia di aver bisogno di altri coloni, l'alta società londinese è conquistata dalla sua figura, si trasferisce in una lussuosa proprietà nell'Essex, vende diritti sulla terra di Poyais a 3 scellini e 3 pence ad acro, poi a 4 scellini. Il primo prestito di 200.000 sterline gli viene concesso nel 1822, nel 23 per Poyais partono 2 navi, ma naufragi e malattie fanno una strage, tornano solo in 50 che raccontano che Poyais non esiste, ma la fama di McGregor incredibilmente resiste e poi lui è già a Parigi, ottiene un nuovo prestito di 300.000 sterline dalla banca londinese Thomas Jenkins & Company, seleziona nuovi coloni azionisti. Il resto è cronaca. Scoperta la truffa, si diffonde la paura, crollano i mercati, McGregor fugge. Arrestato dai francesi lo scorso 7 dicembre, un primo processo è già saltato, un altro dovrebbe iniziare a breve. Paolo Piacenza, Il Gazzettino del Risorgimento, Radio 24. Tutto questo rischia, tra l'altro, di avere un impatto pesante sull'economia reale. Già si registrano aumenti della disoccupazione in tutta Europa, mentre la Banca di Francia è intervenuta per dare ossigeno finanziario a quella d'Inghilterra. Una nuova ondata repressiva contro i liberali si sta scatenando in tutti gli stati d'Italia. Il Papa Leone XII ha inviato una lettera apostolica a tutte le chiese nella quale invita a denunciare gli appartenenti alle sette segrete passibili, dice, tanto di punizione terrena quanto di punizione divina. Altrettanto duro il re delle due Sicilie, Francesco I, che ha creato commissioni addette a giudicare i reati contro lo Stato in tutte le città. Infine Francesco IV di Modena ha concesso l'amnistia a chiunque nell'arco di 100 giorni denunci i cospiratori. Intanto la lotta dei ribelli greci contro i dominatori ottomani sembra arrivata ad un momento decisivo. I turchi, guidati da Ibrahim Pascià, stanno assediando la città di Atene e non sembra che i rivoluzionari possano resistere a lungo. Negli Stati Uniti Thomas Jefferson è morto in bancarotta e pieno di debiti. L'ex presidente americano è scomparso proprio nell'anno nel quale si celebra il mezzo secolo di indipendenza e la dichiarazione di indipendenza che fu lui stesso in gran parte a redigere. Si chiama Verbano, è il primo battello a vapore di linea che attraversa tutto il Lago Maggiore, quindi da Magadino a Sesto Calende, può trasportare fino a 400 persone, molte merci e in caso di sovrabbondanza vi si può aggiungere un rimorchio. È tutto per questa edizione del Gazzettino. Sul nostro sito potete anche scaricare il nostro foglio quotidiano con immagini e notizie, visitate il nostro blog, la nostra pagina Facebook, scriveteci con penne e calamaio elettronici a gazzettino@radio24.it. Da Simone Spezia, che ha condotto questa edizione e l'ha curata insieme a Paolo Piacenza, una buona giornata.